scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Anche oggi uno degli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri, della cultura. Gli incontri di Voci in Scena. Oh yeah. Infinite dagli urologi, la voce del presidente alla radio, e questa crisi che crea panico da stadio. Anche le madri sono molto preoccupate, usano internet. Nasce a Comacchio nel 1985. A 2 anni e mezzo distrugge la batteria regalatagli dalla nonna. Inizia a studiare sin da bambino la chitarra e l'organo, sotto la guida di una stravagante insegnante giapponese. A 11 anni inizia il conservatorio a Ferrara e inizia a studiare anche il sassofono. Nel 2000 si iscrive e partecipa all'Accademia della Canzone di Sanremo. Nel 2007 viene notato dal Club Tenco come nuova proposta emergente dell'anno. Pubblica il suo primo album Mala Tempora. Nel 2008 i giurati del Tenco lo inseriscono nella cinquina in concorso per la miglior opera prima. Nel 2012 il secondo album Ci voglio ridere su. Nel 2013 il Festival di Sanremo nella categoria giovani con il brano Le parole. Nel 2014 il nuovo disco di inediti. Si narra di rane che hanno visto il mare. Lui è Paolo Simoni. E l'ho estrapolata da una frase di una canzone di Stelle Vicine. È una storia sul coraggio, sulla speranza. C'è una rana che esce dal proprio stagno per intraprendere questo viaggio. Questo viaggio tortuoso, rischiando anche proprio di essere schiacciata da una macchina e finire sotto una bicicletta. Intraprende questa sorta del viaggio, esce dai propri luoghi comuni e incontra questa distesa d'acqua, che è una distesa d'acqua che non aveva mai visto prima. Era un'acqua diversa, senza confini, con un sapore diverso, ed è la vita. Quindi le rane siamo noi e il mare è la vita. E ho voluto proprio mettere questo titolo, dato perché mi piaceva la metafora e volevo proprio comunicare quest'atto di speranza, questo sentimento di speranza. E poi perché tutte le storie che racconto nel disco sono storie di speranza, sono storie che hanno un lieto fine, anche se nel loro da farsi sono tortuose, inciampano in chissà quale disavventure, ma finiscono sempre con un esito positivo. Anche nella canzone più, diciamo, più tra virgolette metafisica del disco, che era Al di là, in cui c'è questo personaggio che si interroga su quello che è la vita oltre quella terrena, alla fine si rende conto che c'è qualcosa. 15 di agosto, la riviera in festa, io ti aspetto qua, tu sei ancora via. Giro con la bicicletta, passo per il centro, giapponesi e pubblicità, fotografie e tanta varietà. 15 di agosto, 15 minuti che aspetto. In questo disco c'è tanta vita, presente, futura, ti interroghi molto, c'è la vita del passato, i tuoi legami, la tua famiglia. Sì. C'è anche una foto nel sì. booklet particolare. Sei legato alle tue origini? Sono legatissimo. E poi a 30 anni fai un po', no? Un resoconto di quello che è stato. Sono legato alle mie terre, sono legato alla mia infanzia, ai profumi, ai ricordi, alle donne soprattutto dell'infanzia, quelle che mi hanno accudito, no? Quindi è inevitabile. E a 30 anni fai un po' un resoconto. Ecco perché secondo me questo è un disco emotivo, è un disco in cui veramente ci ho messo tutto il cuore. Ho lasciato un po' da parte quello che sapevo, no? E ho lasciato spazio all'emozione. Hai detto le mie terre. Per noi che, per citare una vecchia canzone, siamo gente di pianura e vediamo il mare molto da lontano, le tue terre invece sono la spensieratezza, le vacanze, la gioia. L'estate sì, d'inverno invece c'è la palude più tortuoso, umida, c'è questo contrasto, no? Che mi interessa molto anche questo, perché proprio vedi anche l'atteggiamento delle persone che cambia, che muta, dei miei conterranei. C'è d'estate, veramente diventano disponibili, aperti, e d'inverno invece c'è proprio questa ritrosia, proprio questo rinchiudersi dentro i locali, nei bar. I giovani sono veramente scuri, neri da un certo punto di vista, perché la provincia non gli offre, no? Lo racconto in Andare via, questa cosa qui. non gli offre chissà cosa, oltre che stare in un bar o forse l'oratorio. Cioè, arriva settembre, dalle mie parti la gente la vedi che proprio, hai presente i commissalici piangenti, proprio vanno in giù perché non hanno veramente un cambio di umore. La grande musica italiana spesso è nata in provincia, perché le storie di provincia sono poi quelle più affascinanti nella musica italiana. Più che altro è bella sta cosa che dici, perché sono affascinato da questo tipo di... In provincia il tempo è rallentato, quindi i personaggi della provincia, del paesino, sono dei personaggi più identificabili, più riconducibili proprio a anche a un aspetto proprio cinematografico. Mi viene in mente Fellini, ma anche tutti i grandi registi. Cioè, raccontare le vite di una provincia è forse più facile, perché veramente i ritmi sono rallentati, le figure sono più nitide, i personaggi sono pochi, sempre gli stessi che si muovono all'interno del paese, quindi c'hai proprio questi punti di riferimento. Non solo le canzoni, ma anche grandi libri sono nati, no? È proprio sotto questo aspetto. È interessantissimo, perché diciamo, la provincia ti regala questo, ha altri aspetti insomma anche negativi la provincia, però questo è il lato positivo. Andare via, andare via, andare via, giù per le strade, sentirsi a casa solo viaggiando senza un dove. Andare via, andare via, con una donna e un amico, è un vecchio disco di Guccini, pensando solo al futuro. Andare via, andare via, andare via, giù per le strade. Romagna, cugini e fratelli emiliani, ci sono degli emiliani che hanno segnato la tua vita e la tua carriera in questi anni? Sì. La musica d'autore di Bologna, no? Quindi Guccini, Dalla stesso, con cui ho avuto l'opportunità di lavorare, l'Iskra che mi ospitava a casa sua, ho vissuto la Bologna. Grande corista di Lucio Dalla. Esattamente. E io poi studiavo tra Ferrara e Bologna, proprio perché mi ero spostato, perché a Porto Garibaldi era impossibile. E quindi ho incominciato proprio ad avere contatto con Bologna, con la musica, con i locali di sera. Mi si è aperto un vortice incredibile, inevitabile non inciampare, che andavo a trovare Guccini a casa, un giorno mi aprì con le pantofole, altro pure, no? Questa disponibilità a Bologna è sempre stata una città che mi ha dato tanto e tuttora mi dà tanto. È sempre stata generosa in tutto, proprio non ho mai avuto un'esperienza negativa in quella città, proprio è una meraviglia di situazioni. E poi Dalla, insomma, ho bussato alla porta un giorno di casa sua, anche lì mi ha accolto, ho cominciato a ascoltare le canzoni, mi dava i consigli. Poi girando con Iskra andavamo nei concerti, ma non solo di Lucio, anche di Morandi, no? Sono cresciuto dentro quest'humus, insomma. Tu nella presentazione di Amontreux, che ovviamente gli ascoltatori sapranno che sì, Lucio Dalla se n'è andato improvvisamente a Amontreux, la riga che tu hai scritto per presentarla è: un ometto piccolo da lassù è venuto a trovarmi per dettarmi questa canzone. Sì, sì, esattamente così. Cioè, io poi sono credente, come lo era Lucio, come lo sono altri artisti, e penso insomma che con la morte fisica se ne vadano alla parte materiale di noi, ma che poi rimanga una coscienza, rimanga un'anima. Ho scritto il testo, mi è venuto proprio di getto sul foglio, come se qualcuno me lo dettasse. Secondo me è passato da lì. Da Dalla a Ligabue, un altro personaggio che ha incontrato la tua vita. La vita, sì, dopo tutto, è fatta, sì, tanto di possibilità, ma anche di incontri. Tutto per caso, poi, no? Anche Luciano, un altro, no? Che mi ha trasmesso delle grandi sensazioni positive, proprio. A parte che il secondo album io l'ho proprio registrato a Correggio, Luciano mi ha dato il suo studio, il suo microfono. Una persona di una generosità incredibile da questo punto di vista. E poi mi ha fatto aprire i suoi concerti. Pazzesco, perché veramente è capitato tutto anche lì in maniera inverosimile, perché Maioli, che è il mio manager, che è poi il manager prima di Ligabue, sentì così per caso le mie canzoni in macchina tramite un'altra persona in comune e si meravigliò. Infatti mi ricordo, disse, era 20 anni che non sentivo una scrittura del genere, e di musica ne ascolto tanta. E da lì è partito, no? sembra quasi che ci sia una, a volte veramente una stella, no, che ti guida nelle cose. Cioè io la sento molto questa cosa qua. Infatti non mi sento mai solo nelle cose che faccio, anche quando lo sono. Sento sempre che comunque qualcuno o qualcosa mi accompagna. Non lo so, non lo voglio sapere, perché secondo me deve rimanere un mistero, almeno per ora. E poi diventerà una verità, come diceva Lucio nel secondo tempo, no? Lui chiamava la morte così. Che non sai quando sei più giovane, però è bello cominciare ad assaporare il successo quando sei più maturo. Assolutamente sì. Poi per come sono fatto io, che sono una locomotiva a motore, a carbone, no? Un amico anni fa mi disse, tu sei, Paolo, sei un po' come il vino, cioè più stai in bottiglia. E ho bisogno proprio che di conquistarmi le cose e di viverle passo passo. Perché veramente ho un carattere che rischierei veramente di rovinarmi proprio anche. Quindi ringrazio veramente la vita che mi dà a dosaggio giusto la sua medicina. Ecco, finisco così. Ed è tutto per questo appuntamento con Voci in Scena insieme a Paolo Simoni. Ci ritroviamo domani alla stessa ora.